Di fronte alla pagina del Siracide, capitolo 43, versetto 33 e seguenti, dove si inizia a tessere l'elogio di uomini illustri, io voglio fare una preghiera al Signore per esprimere come preghiera il mio pensiero. O Signore Dio nostro, la tua grandezza rifulge nelle tue opere, rifulge nella natura inanimata, rifulge nella natura vegetale, animale, rifulge nella natura pensante, l'uomo. Ma tutti ricevono solamente da te la loro grandezza. Allora io voglio considerare la grandezza anche degli uomini, ma poi alzare lo sguardo a te e ringraziare te. E nello stesso tempo voglio guardare la natura e dire come sono belli i fiori spontanei. Io vado dal fiorista e trovo dei fiori straordinari, coltivati. E di solito i fiori coltivati non hanno profumo, sono solo belli. I fiori spontanei hanno un profumo inebriante, che è bello andare per boschi e per monti e vedere le viole profumate, vedere i mughetti che quasi ti inebriano, vedere i narcisi che oltre che essere belli profumano l'aria e profumano e ti deliziano. E dire: Signore, io voglio ammirare la tua grandezza anche nella gente piccola, nella gente del popolo. Quante volte sento uomini dire: mia mamma era una santa donna. Quante volte io incontro persone nella mia vita sacerdotale che vengono a confessarsi da me, ma mi verrebbe quasi da dire alla fine: adesso tu mi devi benedire, perché tu vivi una vita di sacrificio, una vita di preghiera, una vita di santità che mi è di esempio. Quante volte, Signore, ho imparato dal popolo cristiano la generosità. Se faccio un po' di digiuno, non l'ho imparato dai preti, l'ho imparato dalle mamme, dalle nonne. Se vedo vite offerte in sacrificio, lo imparo tante volte dalla povera gente, dalla gente semplice. Per questo, Signore, ti ringrazio e poi lascia che io ti preghi per i cosiddetti grandi. Signore, lo so che mi sento come Don Chisciotte che lotta coi mulini a vento, ma mi stringe il cuore sentire che un famoso professore ha chiesto 350 euro, sì, con la fattura, ma per una sua visita. E altri più modestamente si accontentano di 120 euro per curare il popolo, per curare la gente che non sta bene. Dico: Signore, tu hai dato l'intelligenza a questi grandi luminari, tu hai dato la capacità a questi professionisti. Signore, concedi loro anche un cuore che riconosca che tutto è dono tuo, che la bellezza di una donna è dono tuo, che la forza di un uomo è dono tuo, che l'intelligenza di un sapiente è dono tuo, che la santità di San Giuseppe Moscati, medico agli incurabili di Napoli, era dono tuo e visitava gratuitamente e sosteneva la povera gente. Signore, diffondi la vera grandezza in coloro che cercano di aiutare il prossimo con l'intelligenza che tu gli hai dato, affinché non approfittino dei doni che sono solo dono tuo, ma li condividano anche con il tuo popolo. Allora saranno veramente uomini illustri che meritano il nostro elogio. Amen.